Sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. C'è un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Adesso dovete farci questa gentilezza con silenzio, consegnare le cuffie ad Antonio Caielli e Mirko Labella, che adesso altrettanto silenziosamente si avvicineranno. Invece alle... che changer la femme, changer la cuffia. La cuffia. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sa Nicoletta quanti dei nostri ascoltatori ci ascoltano mentre sono alla guida della loro auto? Tanti, perché ce lo raccontano spesso, vero? È vero. E diciamo loro di stare attenti. Oggi iniziamo rivolgendoci proprio a loro. Innanzitutto guidate con attenzione, non fatevi distrarre o almeno proprio il minimo indispensabile da cuore e denari. E poi provate, senza guardare il contachilometri, a stabilire la velocità a cui state andando. Oppure provate a pensare a quanti semafori avete superato da quando siete partiti. O ancora... provate a misurare ad occhio la distanza con la vettura che sta davanti a voi. State mantenendo la distanza di sicurezza? Ecco, se avete la sensazione di non riuscire a tenere sotto controllo tutto, pensate... Io ne pure di una di queste cose. Io lo stesso. Pensate che ci sono tecnologie oggi che sono capaci di farlo, delle vere e proprie... scatole nere. Pensate a quanto potrebbero essere decisive per ricostruire, quanto sono decisive per ricostruire la dinamica di un incidente, anche piccolo e innocuo per la salute, ma che quasi inevitabilmente invece qualche conseguenza può averla per il nostro portafoglio. Con il nuovo provvedimento sulla concorrenza, che ha appena una settimana di vita, ci sono degli incentivi per l'installazione delle scatole nere. Ne parleremo nella prima parte della trasmissione. Voi la installereste o avete paura di essere troppo sotto controllo perché qualcuno dice no grazie, non la voglio per questo motivo? E allora avete paura per la vostra privacy o preferite un po' di risparmio? Iniziate a raccontarcelo all'800 24 00 24. E invece Deborah, raccontami tu una cosa. Sì. Perché ridi già? Sentiamo la domandone. Dimmi un po', ma cosa lo vinco? Lo chiedo. Tu niente. Tu hai già vinto me. Un premione. E non è poco. Chi è questa vocina? È Andrea Salonia, che è già pronto perché alle 11.45 parte il nuovo appuntamento. Con... Quanti semafori stamattina? Ecco, tanti. Io ero in taxi, grazie a Dio, però quel signore mi ha portato con grande... Non cercare di sfuggire alla domanda, dimmi un po'. Sono concentrata. Se ti piacciono i belloni. Se c'è un po' di sostanza anche preferisco generalmente. No, però posso dire no, orientativamente mi piacciono gli uomini interessanti. Infatti noi donne cerchiamo e apprezziamo in un uomo l'X factor, che non è fatto da chiome più o meno fluenti, da addominali scolpiti, ma da fascino, intelligenza, sensibilità, garbo, carattere e charme. Certo che non è che Brad Pitt lo buttiamo via, Deborah, assolutamente direi no. Direi proprio di no. Ma il nostro anche compagno... con l'età si è fatto... altro che interessante, più, altro che... Vabbè, comunque, non voglio continuare a fare paragoni perché ci porterebbero lontano. Invece, volevo anticiparvi che il secondo appuntamento di Salute Uomo, questo progetto che abbiamo pensato per aiutare gli uomini a prendersi a cura della propria salute, oggi... parlerà proprio di immaginario corporeo. Esatto, oggi parleremo proprio di quanto la bellezza e l'immagine corporea al maschile sia espressione di potenziale salute al maschile, un modo forse un po' nuovo di considerare la beltà, e anche Brad Pitt, George Clooney e in company. E guarderemo dai capelli, quindi dalla testa ai piedi. Quasi. 800 24 00 24 se volete iniziare a prenotare i vostri interventi. Intanto io vedo Carmelo Lauricella, bello come il sole, si è fatto crescere pure la barba. Molto interessante Carmelo sto periodo. Invecchiando migliora. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. tutti. Abbiamo sostanzialmente inserito nel testo un obbligo da parte delle assicurazioni a praticare dei sensibili sconti rispetto alle tariffe, diciamo, oggi praticate, nel caso in cui l'assicurato, il cliente, decida di accettare alcune condizioni, fra cui l'ispezione preventiva del veicolo, l'installazione o la presenza a bordo della cosiddetta scatola nera, l'installazione di rilevatore del tasso alcolemico. Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, l'abbiamo ripescata più volte questa settimana. Nicoletta, lo sapevi che l'Italia è leader per europeo per il numero di scatole nere installate nelle auto? Mi sembra un'ottima notizia, mm-hmm. E il tema è di grande attualità, infatti noi ne parliamo a cuore denari. Esattamente, perché proprio una settimana fa abbiamo risentito il ministro Guidi con il provvedimento sulla concorrenza. Il governo è intervenuto in campo assicurativo per tentare altre strade che permettano ai consumatori di risparmiare sulle polizze auto. Nel pacchetto si introducono obblighi di trasparenza da parte degli intermediari che prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da altre imprese, da tutte le imprese. Nella norma si parla poi di possibili sconti obbligatori, o meglio sconti significativi da applicare ai contraenti le polizze nel caso in cui si rendano disponibili ad installare la scatola nera a bordo. I costi sono a carico dell'assicurato e poi l'assicurazione sconta sul premio. Allora vi attrae l'idea, ve la fareste installare a patto di avere una cospicua riduzione sul premio, oppure vi sentireste troppo osservati, controllati, invasi nella vostra privacy? 800 24 00 24 per le vostre domande in diretta, però volendo possono anche scriverci gli ascoltatori. Assolutamente, al 349 238 6666 o potete seguirci su Facebook o su Twitter. Buongiorno a dottoressa Antonia Boccadoro, segretario generale di AIBA, che è l'associazione dei brokers assicurativi, che peraltro proprio martedì scorso in una conferenza stampa a Milano ha presentato questa associazione un articolato osservatorio su italiani ed RC Auto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno e benvenuta. Dottoressa Boccadoro, di scatola nera sentiamo spesso parlare al cinema qualche volta, ne leggiamo sui giornali quando ci riferiscono di notizie di incidenti aerei. Cosa si intende per scatola nera quando si parla di un veicolo, di un'automobile? Che utilità ha questo strumento nell'ambito dell'RC Auto? Sì, allora la scatola nera è sostanzialmente un dispositivo, è un satellitare al quale viene aggiunto un sistema di rilevazione di accelerazione. Sostanzialmente è uno strumento che localizza il veicolo, registra accelerazioni, decelerazioni e spostamenti laterali del veicolo negli istanti precedenti alla registrazione di un urto, di cui riesce a calcolare la forza di impatto. Quindi a cosa serve questo strumento? A ricostruire la cinematica del sinistro, quindi la dinamica esatta, oggettiva del sinistro, e a comparare e a definire se sono compatibili le lesioni subite dalle persone coinvolte rispetto alla registrazione della forza d'urto di impatto. Quindi rispetto, diciamo, alla dinamica dell'incidente. Questo in termini generali il funzionamento della scatola nera, a prescindere poi dalla vostra posizione, dottoressa Boccadoro, un po' cercheremo di capire cosa ne pensa l'industria assicurativa di tutte queste novità. Il provvedimento sulla concorrenza varato settimana scorsa, che cosa prevede a proposito dell'utilizzazione appunto della scatola nera? Allora, intanto una precisazione. Si dice utilizzazione, tra l'altro, mi scusi perché nel frattempo mentre utilizzo forse un po' però meglio. Assicurazione, utilizzazione, esatto. Si va un po' per assonanza. Stamattina così ho parlato un po' a libertà, mi scusi dottoressa Boccadoro. Nessun problema. Volevo dire, intanto si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, quindi non è ancora efficace, è una proposta che dovrà essere discussa in Parlamento. Per quanto riguarda in particolare le scatole nere, questo disegno di legge prevede tre novità legislative a nostro giudizio importanti. La prima, il valore probatorio di quanto registrato dallo strumento, valore probatorio in caso di contenzioso in giudizio. Ora è valorizzato solo da alcuni tribunali, quindi ci sembra sicuramente un passaggio importante per incentivarne l'utilizzo. Certo. Secondo punto, la portabilità della scatola nera in caso di cambio di compagnia sullo stesso veicolo assicurato. Questo è un punto importante. Noi tutti perché ora non si da può. Tempo, in particolare i broker, sull'opportunità che ci sia più mobilità dei consumatori da una compagnia all'altra. Soltanto il fatto, a parte qualche piccolo costo, anche solo la noia di dover disinstallare e reinstallare sul veicolo questi dispositivi, che non sono considerati standard e diciamo universalmente accettati dalle compagnie, è un ulteriore elemento per l'incentivazione all'utilizzo delle scatole nere. Terzo elemento? Terzo e ultimo elemento, la incentivazione all'uso delle scatole nere da parte di veicoli che hanno creato un incidente e non avevano la scatola nera montata. La compagnia dovrà aumentare il premio per effetto dell'effetto bonus malus, ma in maniera meno pesante dal punto di vista economico qualora l'assicurato decida di montare la scatola nera. Diciamo che il governo, parlando di scatola nera in questo provvedimento, non è che si sia poi esattamente inventato l'acqua calda, come si dice in certi casi, perché di scatola nera sentiamo parlare da tantissimi anni. Oggi le compagnie stanno cercando anche di attrezzarsi dal punto di vista tecnologico in maniera molto interessante, appunto con queste nuove con queste nuove tecnologie, passatemi il termine. La storia della scatola nera non è recente, anche perché ci ricordiamo nel 2005, dottoressa Boccadoro, quando le compagnie di assicurazione furono accusate di fare un cartello e furono multate dall'antitrust, se non ricordo male, parte dei soldi di questa multa dovevano essere dirottati proprio per mettere in piedi delle iniziative di sperimentazione e di installazione di scatole nere. Ogni compagnia ha provato a fare una selezione di candidati clienti possibili che potessero essere adeguati alla sperimentazione, ma ci furono molte difficoltà. Quali furono? Perché lei si ricorda molto bene quella fase. Sì, dunque le difficoltà, questo fu un progetto sviluppato dalle compagnie sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'autorità di vigilanza, l'ISVAP. L'IVA, sì. In quell'occasione, per il montaggio di qualche migliaio di scatola nera, fu necessario ripetere l'invito a gruppi successivi di cittadini affinché accettassero di montare questo sistema assolutamente gratuitamente. Questo per un pregiudizio di fondo legato a questioni di privacy. E quindi siamo ritornati un po' al punto di partenza, diciamo che c'è un po' di remora a farla installare, cioè diciamo che gli italiani preferiscono fare un po' i fatti propri al volante piuttosto che avere magari 100-200 euro di sconto, perché poi di questi sconti stiamo parlando, no dottoressa Boccadoro? Stavo osservando che stamattina proprio qualcuno su Facebook ce lo scriveva, un ascoltatore: da 900 la compagnia mi fa 700 euro di premio, 200 euro di risparmio, a me della privacy non interessa nulla, quindi preferisco ovviamente incassare un po'. Possiamo quantificare lo sconto possibile per i contraenti che accettano l'installazione? Dal nostro osservatorio vediamo che gli sconti variano a seconda delle compagnie, a seconda anche dei profili di rischio, da un minimo del 5% a un massimo del 30%. Quindi se noi prendiamo per esempio un guidatore medio che paga un premio medio di 600 euro, quindi siamo su un buon guidatore di età media che non ha una classe di merito particolarmente sfavorevole, la sua tariffa base da 600 euro scontata, prendiamo uno sconto medio del 20%, costerebbe anziché 600, 480 euro. A questo però dobbiamo aggiungere un canone annuo, generalmente di manutenzione della scatola nera, che in genere le compagnie richiedono. Che costa più o meno 20 euro. Quindi sostanzialmente il costo per l'assicuratore arriva con la scatola nera a 500 euro rispetto a 600, uno sconto del 17% rispetto al 20 frontale. Se andiamo su compagnie che scontano anche il 30%, questo vantaggio può arrivare al 26-27% rispetto alla tariffa base. Insomma, quindi magari bisogna cercare la compagnia che ti faccia giusta, il 30%. Esatto, e magari qualcuna, anche per favorire un po' di politiche commerciali, magari si incarica anche di questo canone annuo, dice: guarda, magari per il primo anno non te lo faccio pagare, partiamo dal secondo. Stai suggerendo delle idee? Certamente. Brava. Spingiamo ulteriormente la concorrenza, facciamo un po' le guide il Ministero dello Sviluppo Economico della situazione. Direi di cominciare a sentire anche gli amici da casa cosa pensano. Io vorrei di tutto andare questo. A Macerata. Volentieri, perché c'è Romina. Io nelle Marche ci vado sempre volentieri. Romina, buongiorno. Buongiorno, siete formidabili, chiarissime, utilissime tutti i giorni. Grazie Romina, detto da una ragazza sempre. Giovane, perché percepisco anche, perché ci fa piacere 41, questo. Insomma, non è proprio giovanissimo. Giovanissima. Abbiamo il nostro urologo per amico che pur occupandosi di salute maschile valorizza le donne, certo. Giustamente. Certo. Bravo. Robina, ci dica tutto. Allora, il mio intervento spero sia limitatamente utile, è una riflessione che faccio. Io un anno fa ho avuto un incidente e viaggiavo su una corsia praticamente a velocità moderata e purtroppo da una strada di missione una signora che guardava nella borsetta si è messa a una certa velocità e mi è venuta contro. Chiaramente tra donne, quando percepisci che dall'altra parte ci può essere la buona fede, non abbiamo chiamato nessuno e morale della favola, mi sono dovuta collare il concorso di colpa. Ecco, in quel caso la scatola nera sarebbe stata utilissima, secondo me. Ah, ecco, e se l'avesse avuta. Per cui, esatto, quindi la mia riflessione è velocissima, spero che sia di uno spunto per tanti che debbano considerarla, insomma. È sempre in tempo a farlo, Romina, no? Magari adesso, anche sfruttando i vantaggi offerti da questo provvedimento legislativo, può anche andarsi a fare una chiacchierata con delle compagnie per capire intanto che tecnologie nuove ci sono, che come se ne può avvalere lei sulla base anche della strada che percorre ogni giorno, no? Tra l'altro, dottoressa Boccadoro, ammettendo di aver stuzzicato oggi l'idea ad alcuni dei nostri ascoltatori che viaggiano molto, magari per ragioni di lavoro, ma non solo. Secondo lei quali sono gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione quando si fa una chiacchierata con il proprio agente di assicurazione, magari con un broker, per capire che tecnologia ci serve, visto che le compagnie, lo dicevo anche prima, adesso stanno sperimentando molte novità in casa propria? Allora, sicuramente la scatola nera è uno strumento che solitamente viene offerto al cliente, non solo perché ha un vantaggio economico, ma perché nei pacchetti di coperture assicurative, quindi auto, furto, assistenza, ha dei vantaggi ulteriori, non solo dal punto di vista economico, la tariffa furto è fortemente scontata con la scatola nera, ma anche perché per chi soprattutto viaggia molto, percorre molti chilometri, magari da solo, magari anche in condizioni di disagio, di notte, per esempio l'assistenza può essere un costo assolutamente contenuto che con la scatola nera dà una grande sicurezza. In caso di rilevazione dell'urto viene inoltrata una chiamata sul numero di cellulare del guidatore abituale per richiedere, per verificare la necessità di inviare un mezzo di soccorso o un'ambulanza. Sono tutti strumenti che, sì, a nostro giudizio rappresentano un elemento di garanzia, esatto, e di prevenzione costo per il cliente. Vedi, Marcello ad esempio ci scrive che è molto soddisfatto. Lui l'ha installata sull'auto che usa per lavoro 2 anni fa. È soddisfatto per gli sconti dovuti allo stile di guida, al carburante e alle multe risparmiate per osservanza dei limiti. Ha allungato un po' i tempi di percorrenza, ma parte prima, e poi lui, certo, dice privacy non esiste comunque. Esatto, ma poi tu pensa, te la rubano e comunque con la scatola nera il ladro non lo sa. Mi viene quasi voglia di riprendere una macchina per mettere la scatola nera. La metterò con quella di mio marito. Carlo, esatto. Allora 800 24 00 24, continuate naturalmente a raccontarci come la pensate su questo argomento. L'RC Auto è una spesa più o meno fissa nei bilanci di molte famiglie, poi magari ritenete che un risparmio di 100 euro sul vostro bilancio non vale la pena farlo e preferite la privacy. Io direi che però, insieme a tutta la rosa di vantaggi che ci sono stati ben elencati appunto dalla dottoressa Boccadoro, forse vale la pena fare una riflessione aggiuntiva rispetto al mero aspetto economico che va considerato. Andrea Salonia, lo vedevo molto stuzzicato. Sono dall'idea. Stuzzicato perché se pensiamo, sta pensando a una scatola nera per la vescica, per la salute ma anche per la vescica. Pensavo esattamente a questo. Consigliamo ai nostri ascoltatori, al maschile ma anche al femminile, di andare sempre in bagno a fare la pipì prima di partire per lunghi viaggi? La scatola nera della salute ne è un po' emblematica in questo senso, perché i rischi a livello vescicale da incidente sono elevatissimi e nessuno lo sa. Cuore e denari. Per la bellezza è indispensabile un'alta statura. Le persone piccole possono avere grazia ed eleganza, ma non bellezza. Aristotele, Etica Nicomachea. Non l'ha detto, Deborah Rosciani. Come a dire, insomma, altezza, mezza bellezza, io non sono assolutamente d'accordo, ma naturalmente sono di parte. Perché sono convinta che sia il fascino, come abbiamo anticipato, a dare bellezza, col vantaggio che non sfiorisce col passare degli anni. Ma oggi non parliamo di fascino, ma di immagine corporea, insieme ai nostri esperti capitanati da Andrea Salogno, urologo a San Raffaele di Milano, l'uomo del trio, così l'abbiamo soprannominato con Deborah. E lui si trova molto bene, vedo. Molto. Ci occuperemo dei complessi del maschio contemporaneo, parleremo di capelli, di ginecomastia e di sindrome dello spogliatoio. Facciamo un breve sommario, Andrea. Avremo infatti oggi tre amici, mi piacerebbe chiamarli così. In primo luogo avremo il dottor Rinaldi, che è probabilmente uno dei più esperti tricologi in Italia, quindi si occuperà di capelli. Avremo il dottor Marassi del San Raffaele, che si occupa di patologia della mammella, e oggi l'abbiamo invitato a parlare di mammella al maschile, e avremo poi il dottor Colombo dall'ospedale di Bologna in Malpighi, dove fondamentalmente ci permetterà di trattare di sindrome dello spogliatoio, e lasciamo un minimo di suspense per capire esattamente di che cosa si parli. 800 24 00 24, se volete iniziare a prenotare i vostri interventi. Vedo nero coi miei occhi, vedo nero e non c'è pace per me. Incentivi all'installazione della scatola nera sulle nostre automobili, dovrebbe arrivare molto presto, ne parliamo ancora per qualche minuto qui a Cuore Denari. Sempre con noi Antonia Boccadoro, segretario generale di AIBA, l'associazione dei brokers assicurativi, pronta a rispondere alle vostre domande all'800 24 00 24. Si è scatenato un grandissimo dibattito su Facebook, fra gli SMS, abbiamo notato con Nicoletta tantissime le vostre telefonate. Facciamola subito la domanda che ci facevamo a microfoni spenti. Volentieri, perché ci permette anche di riprendere una domanda ricorrente al 349-238-6666. In pratica, la prima domanda che ci fa Ugo, che avevo già fatto anch'io fuori onda a Deborah, anche veramente il nostro uomo, se la black box, come la chiama Ugo, registra anche la velocità. E questo fa il paio anche con l'SMS che ci manda Pasquale De Bari, perché lui dice: faccio un incidente in cui ho ragione, ma vado ad una velocità superiore del limite, che succede? Certo. Spero di essere stato chiaro. Dottoressa Boccadoro, il tema è: se si supera il limite di velocità, ma anche ammettendo di non cagionare nessun sinistro, di non provocare nessun incidente, c'è chi teme che il dato venga in automatico trasferito alla polizia municipale, che ci venga pioppata la multa. Ma non funziona esattamente così, perché altrimenti è ovvio, perché lui ci prende in giro, ecco le solite domande da donna stanno facendo. Ma dottoressa Boccadoro, specifichiamo, perché altrimenti qua veramente nessuno la installerebbe mai più. Assolutamente. Dobbiamo fare un po' di chiarezza. Intanto la prima considerazione: siamo molto più tracciati attraverso smartphone e tablet che non con la scatola nera, però l'idea della scatola nera montata sulla macchina ci atterrisce. I dati registrati dalla scatola nera vengono costantemente cancellati, gli unici dati, e non vengono diramati a nessuno, neanche al proprietario del veicolo. Solo in caso di urto vengono mantenuti e congelati i dati relativi agli istanti precedenti all'urto per ricostruire la dinamica dell'incidente. Allora, la domanda dell'ascoltatore che dice: supero i limiti di velocità, vengo multato indipendentemente dal sinistro, è un falso. Questo non è ammissibile, non è possibile con il sistema di scatola nera, che non può essere utilizzato al di fuori della dinamica di un sinistro stradale. E allora vi siete... Nell'ambito invece di un sinistro stradale, certamente se la mia velocità era superiore a quella consentita in quella percorrenza, e se la mia condotta di guida è stata caratterizzata da un comportamento non idoneo, ad esempio non mi sono fermato a uno stop, a un diritto di precedenza che è localizzato rispetto al punto dove è avvenuto l'incidente, chiaramente questo verrà valorizzato nell'ambito del sinistro. Però, come diceva l'ascoltatrice di prima, io credo che sia un buon sistema per educare al rispetto delle regole e anche per potersi, in occasione di un sinistro, rilassare in un momento che è comunque traumatico rispetto a quanto è accaduto in quell'istante, perché la ricostruzione verrà calcolata in maniera oggettiva. Per quanto tempo quindi vengono mantenuti registrati i dati, dottoressa Boccadoro? Dipende dai sistemi. sistemi. Non le so dare una risposta esatta su questo punto perché è molto tecnica, ma certamente questi dati vengono distrutti costantemente, nel senso che nessuno ha interesse a mantenere la registrazione dei dati se non c'è stato un sinistro. Perfetto. E non vengono diramati in alcun modo, persino per la ricostruzione di un furto, utilizzando la black box e la scatola nera per localizzare il veicolo, prima di poter accedere ai dati della centrale operativa, il proprietario del veicolo deve avere presentato denuncia alle autorità di polizia e deve avere inoltrato per mail questa denuncia all'assicuratore al fine di poter accedere ai suoi dati e localizzare il veicolo. Prima di salutare il prossimo ospite, velocemente volevo sentire Federico da Brescia. Federico, all'800 24 00 24, centralini affollati stamattina. Sì, ci piace molto la dottoressa Boccadoro, molto chiara. Federico, buongiorno. Buongiorno a voi, Deborah e Nicoletta. Nicoletta, vi ascolto ogni giorno e sono emozionato, sinceramente. Ogni giorno quando posso, sinceramente. Allora si sforzi un po' di che più. Lei possa sempre di più. Sempre di più. Ecco, Federico, ci dica tutto. Cosa allora, ne pensa? Io ne penso che è una magnifica idea, in quanto, a parte il risparmio economico, è anche per una sicurezza in più, non solo personale, ma anche per chi ha figli o comunque per Bravo. Chi ha... Cioè è una sicurezza maggiore sapere come sono andate le cose, cioè io che sono padre sinceramente desidero sapere quello che è successo. Cioè, Federico, guardi, ci dà, come lo chiamo sempre io, un assist perfetto, poi le faccio sentire cosa ne pensa Antonia Boccadoro sulla questione dei neopatentati che strapagano le prime assicurazioni. Io dico anche giustamente che magari possono avere anche degli sconti in modo tale che questa tariffa dell'RC Auto gravi un po' meno sul bilancio delle famiglie, ma lei pensi quanti vantaggi del sapere appunto che se succede qualcosa si può essere un po' ricostruita tutta la dinamica di incidenti che speriamo non capitino più. Poi faccio fare un commento a Boccadoro su questo, ma intanto saluto Andrea Polo, responsabile delle relazioni esterne di Facile.it, piattaforma di comparazione che proprio sul tema della scatola nera ha raccolto e diffuso alcune informazioni molto interessanti. Andrea, buongiorno. Subito buongiorno, commentiamo il primo dato dal quale sono partita: Italia leader per le scatole nere installate. L'Italia è leader e lo è da tanto, tra l'altro. Questa è una cosa buona perché già a febbraio dello scorso anno ormai erano più di 2 milioni le vetture che avevano questo dispositivo già installato. Cifra che peraltro è abbastanza comprensibile se si considerano quelli che sono i costi, ovviamente, dell'RC Auto in Italia. Dati alla mano, però già questo numero ci consente di dire che in Italia abbiamo sorpassato per installazioni ad esempio Gran Bretagna e Stati Uniti, mercati però, solitamente ben più grandi. Quali altre evidenze riscontrate, Andrea? I premi cambiano di molto al momento se c'è la scatola nera? Allora, come spesso andiamo a dire, è difficile fare un discorso generico su il premio dell'RC Auto perché va valutato profilo per profilo. Bisogna comunque mettere in evidenza due cose. Solitamente si possono arrivare ad avere dei risparmi anche intorno al 10-15% sulla medesima compagnia. Potrebbero capitare dei casi in cui paradossalmente il primo anno ci si trovi ad avere in realtà un incremento del premio RC Auto che viene poi però riassorbito negli anni successivi, quindi il risparmio non si vede magari subito ma si vede appena dopo. Dicevo, è legato molto al premio, al costo del premio RC Auto, tant'è vero che oggi fatto 100 il numero delle scatole nere o dispositivi satellitari, come vengono chiamati in termine tecnico, fatti in Italia, 49 su 100 sono nel sud, nel nord ce ne sono 31, il restante si trova nel centro Italia, quindi questo ben definisce chi e perché sceglie la scatola nera. Profilato chi preferisce installarla. Grazie ad Andrea Polo, relazioni esterne di Facile.it. Sentirei Franco dalla provincia di Venezia per poi andare verso la conclusione, quindi completiamo il nostro ragionamento con Antonia Boccadoro sui neopatentati, perché è un tema che naturalmente a noi piace tenere particolarmente sotto osservazione. Franco, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie, complimenti a voi, vi ascolto molto spesso, tutte le volte che sono in macchina soprattutto. Già che siamo in tema, naturalmente. Una piccola testimonianza per quanto riguarda il dispositivo satellitare. Io ce l'ho nella macchina principale da oltre 8 anni ed era nato soprattutto come antifurto satellitare, questo per avere una maggior sicurezza. L'importante era che questo aveva entrambe le funzioni che avete citato, la possibilità di chiamare la polizia in caso di incidente automaticamente. Certo. Ma anche una chiamata di soccorso sanitario o di altro genere. E ovviamente l'ho installato anche sull'altra macchina che abbiamo in casa, che è guidata normalmente da mia moglie e da mia figlia, questo anche per motivi di sicurezza. Certo. Io vivo nel Veneto, che non è una regione. Possiamo sintetizzare, Franco, perché stiamo chiudendo questa parte? Sì. Quindi niente, io ce l'ho anche questa macchina. Preciso che un giorno mi è arrivata una contravvenzione dalla Sicilia, avevano rilevato la mia targa e con la dichiarazione che mi ha rilasciato la compagnia la contravvenzione è stata annullata perché io in Sicilia non c'ero. Ecco. Quindi i benefici sono più di uno. Abbiamo trovato un vantaggio aggiuntivo rispetto a quelli che abbiamo elencato. Franco, grazie per la sua testimonianza. Antonia Boccadoro, concludiamo rapidamente. Insomma, vedo che gli ascoltatori fanno già da supporter al dispositivo satellitare. Ci fa quel ragionamento a cui so che lei tiene molto dal punto di vista educativo per i neopatentati? Sì, accenno solo al fatto che con il sistema della patente a punti c'è una maggiore attenzione di tutti i guidatori alla guida. Per i neopatentati i punti nel caso di infrazione alle regole del codice della strada si raddoppiano. Ora, il sistema della scatola nera incentiva a nostro giudizio una guida educata, prudente, soprattutto per i neopatentati, soprattutto per i giovani. Li mette nella condizione di non dover raccontare o percepire, magari in maniera del tutto sincera ma in maniera non corretta, cosa è accaduto in caso di un incidente stradale, sia quando lo subiscono sia quando lo provocano. Certo. Grazie ad Antonia Boccadoro per essere stata con noi. Grazie, complimenti per la sua chiarezza. Quindi la richiameremo molto presto, si tenga pronta, perché ovviamente questo è un tema che, come tanti altri, scatena grande interesse. Noi ci torneremo adesso. Che si fa? Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, certo, sulle autostrade. Siamo coerenti fino in fondo. Scatola nera o no? E poi torniamo con il maschio, il fascino, la bellezza maschile, ma anche i punti di criticità che possono in qualche modo minacciare anche l'autostima. Cuore e denari. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello. Eccoci qua, è arrivato l'appuntamento di Salute Uomo, il trio si è ricomposto in realtà. Non Andrea Salogna ormai si è innamorato di noi e ci segue. E comunque noi oggi siamo pronti a misurare quanto vi sentite belli o quanto si sentono belli i vostri compagni, i vostri colleghi, i vostri fratelli. E rivolti all'uomo, che cosa vi fa sentire bello in forma, ma anche che cosa del vostro aspetto vi mette in crisi, cosa cambiereste, cosa non riuscite ad accettare. Io credo, Nico, che si debba dare un cenno al perché abbiamo scelto questo titolo e certo, perché abbiamo scelto questo argomento. Guardate oggi le riviste, i giornali parlano di Kirk Douglas, 100 anni, uomo molto affascinante, lo era negli anni 50-60. Sì, quasi 100. Praticamente 100, con un ictus alle spalle. Un ictus ancora nel 96, porta, vero? Porta molto molto bene. Perché è importante questo? Perché il canone della bellezza, prima ci parlavano di Aristotele, è sostanzialmente cambiato nel tempo, ma ci sono alcuni elementi che ancora rimangono inemendabilmente legati alla percezione del sé. E nel caso dell'uomo questo risulta particolarmente importante ed è per quello che abbiamo invitato 3 specialisti che si occupano di campi molto spinosi, diversi molto diversi e molto spinosi. Infatti parleremo di capelli, parleremo di ginecomastia, quando praticamente c'è una sorta di mammella al maschile, e parleremo della sindrome da spogliatoio, una sindrome che colpisce solamente voi maschi. Possiamo sdoganarla, però anche noi frequentiamo la palestra, nello spogliatoio, però insomma non è che facciamo io non me ne faccio una malattia, però guardo e dico mamma mia, potrei anche impegnarmi un po' di più con gli addominali in sala, va? Però non nascono complessi. No, nel caso del maschietto i complessi sono molto più frequenti e partono già dal periodo peripuberale nell'adolescenza tutto tondo, per poi manifestarsi, perpetrarsi anche nell'età adulta, e fanno più frequentemente riferimento alla dimensione dei genitali esterni, del pene, eccetera eccetera. Quindi 800 24 00 24 per prenotare i vostri interventi. Noi abbiamo invitato tanti esperti a cui abbiamo chiesto di aiutarci ad inquadrare il tema e affrontare il problema alla luce delle più recenti scoperte ed evidenze scientifiche. E allora diamo subito il benvenuto al dottor Fabio Rinaldi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Specializzato in dermatologia e venerologia presso l'Università di Milano e presidente della Fondazione Internazionale di Ricerca Tricologica. Dottor Rinaldi, non c'è niente da fare, l'80% degli uomini prima o poi, entro i 60 anni per lo più, perde i capelli. Da un punto di vista funzionale lo sappiamo, la mancanza di capelli non comporta nessun problema fisico, ma psicologicamente può creare disagi anche pesanti. È così. Anche in persone assolutamente tranquille, realizzate, senza grossi problemi, la carenza di capelli spesso crea un disagio che diventa molto importante. In uno studio che abbiamo realizzato nel 92 insieme a un collega di psichiatria, abbiamo visto che crea dei disturbi di personalità ogni tanto che sono eccessivi rispetto al problema, ma che fa star veramente male la gente. Quindi. Tra l'altro, dottor Rinaldi, si pensa che il colpevole sia il papà, in genere invece la mamma. Sì, nei maschi. Quindi ereditati i capelli della vostra mamma. Esatto. Ecco. Nei maschi è la mamma, perché si trasmette l'errore sul cromosoma X, e quindi nel maschio l'X è solo materno. Allora, statisticamente il padre è calvo per lo più, perché rientra in quell'80%, ma guardiamo la mamma o gli zii della mamma o i fratelli della mamma o il papà, perché arriva da lì il problema. Ed è proprio vero, il dottor Rinaldi mi visitò, io ero un ragazzino, ovviamente tutti sanno che non ho capelli, il mio nonno materno, tutta la sua famiglia erano calvi, il mio papà alla mia età aveva più capelli di quanti io ne abbia ora. Certo. Infatti ogni tanto si dice, caspita, mio papà è totalmente calvo, farò quella fine, invece non c'entra niente. Ecco, quindi tranquillizzatevi. Dottor Rinaldi, tra l'altro molti lavori scientifici hanno dimostrato l'efficacia di numerose sostanze e si parla anche di crononutrizione, perché se ormai tutti ben sappiamo che la dieta influenza il nostro stato di salute, ma anche il modo, anche naturalmente la salute dei nostri capelli, adesso c'è di più. Non è solo più importante cosa si mangia, ma anche a che ora del giorno si mangia. Ma io avrei bisogno con lei, qua vogliamo un flash degli aggiornamenti. Andiamo per ordine, partiamo da un principio attivo che si è dimostrato molto efficace e che viene utilizzato per la cura di una patologia oculare che era stata ribattezzata come il ladro silenzioso della vista, il glaucoma. Sì, quindi un farmaco, un po' come è successo per la pillola blu, Sì, creato per il cuore, ma poi esatto. È utilizzato. Molto utile peraltro. Certo. Sì, il latanoprost è una sostanza particolare che è utilizzata nel glaucoma comunemente. Si dice che fondamentalmente non abbia per il glaucoma grandi effetti collaterali, tranne uno per chi ha questo problema dagli occhi, che le ciglia continuano a crescere, spesso vanno tagliate perché danno persino fastidio. Da tutti questi studi si è visto che sui bulbi piliferi fa estremamente bene, e addirittura ci sono degli studi che sono stati fatti anche sulle forme più importanti come l'alopecia areata o quella di cui stiamo parlando, androgenetica. Se si applica una soluzione o si fa passare attraverso la pelle, per esempio con la ionaforesi, quindi in un metodo ancora più diretto, delle concentrazioni intorno allo 0,1% di questo latanoprost, che è la sostanza più studiata, spesso i capelli stanno bene. Il latanoprost è comunque un farmaco, quindi conviene che sia il medico che lo prescrive nel momento in cui serve, e una cura per esempio di 2 o 3 mesi può aiutare molto, i capelli stanno meglio e possono crescere anche un po' di più e meglio. Possiamo sottolineare, dottor Rinaldi, questo aspetto? È sempre bene che sia un medico a prescrivere i farmaci a è tutto tondo in tutte le specialità? Ovviamente sì, primo perché ogni tanto arriva qualcuno che non ha quel problema di capelli ma un'altra cosa, e quindi prima di tutto serve la diagnosi, e quindi è il medico, esatto, che fa capire che cos'hai. Nel momento in cui so e ho scoperto che cos'ho, scelgo il farmaco migliore. Sì. Noi stiamo parlando di novità, però ci sono, che a una persona può servire più la vitamina D o il latanoprost, ed è il medico che lo decide. Esatto. Ed è sempre il medico che deve fare questo, chiaramente. Invitiamo i nostri ascoltatori, anche le nostre ascoltatrici, naturalmente a comporre il nostro numero verde 800 24 00 24 se volete raccontarci un po' come vivete il vostro corpo, la vostra, quanto vi sentite belli, che cosa invece della vostra immagine in qualche modo vi blocca, vi dà fastidio, che cosa di voi vorreste cambiare. Oggi abbiamo proprio cercato, partiamo con i capelli, ma vogliamo anche occuparci di ginecomastia, un disturbo che non va sottovalutato, viene spesso tenuto nascosto, sì, perché sì. Insomma è questo accumulo di tessuto adiposo nella zona mammaria che in un uomo giovane e meno giovane può creare molto problemi. E poi parleremo di sindrome dello spogliatoio, ma dottor Rinaldi, io vorrei parlare con lei di una delle strade più innovative che ha acceso molte speranze, ed parlo dei fattori di crescita che danno, per così dire, una nuova vita ai follicoli. Sì, danno una nuova vita. Noi viviamo, il corpo è regolato dai fattori di crescita in tutte le sue funzioni, assolutamente. Quindi da qualche anno, da 7-8 anni, ormai ci sono degli studi che hanno dimostrato come i fattori di crescita, soprattutto quelli che vengono dalle piastrine, sono la fonte di fattori di crescita più facili da prendere, perché basta un prelievo di sangue come per un esame del sangue, e centrifugando il sangue, ottenendo il plasma che si arricchisce perché arrivano tutte lì, si possono somministrare i propri fattori di crescita, e magari adesso si possono aggiungere anche quelli sintetici, cioè uguali ma che vanno ad aggiungere ancora quantità, sì, in modo da stimolare nuovi follicoli, e quindi si può parlare proprio di nuovi capelli, o comunque di far stare bene, molto bene, gli altri, insomma. Grazie al dottor Rinaldi. Sulla pagina di Salute Uomo trovate un approfondimento e quindi estremamente dettagliato. Vi rimandiamo a Salute Uomo. Cuore e denari. Mi piaci. Mi piaci. Ci piacciono. Allora, Varoufakis ci. Mi piace, lo sai, l'ho confessato in tempi non sospetti. Il ministro scamiciato. Hai fatto un elenco di almeno 10 uomini, uno diverso dall'altro, che ti piacciono. Robert Redford ci è sempre piaciuto. Esatto. È sempre, vero? È sempre più bello, più interessante, più intrigante. Non so quanti altri. Ditecelo ancora anche voi, care amiche da casa, e raccontateci anche quanto è bello il vostro compagno, e se lo aiutate anche ad accettarsi, lo fate anche voi sentire bello, perché bella anche osservazione, sì. Vero? Mm-hmm. Infatti, quanto non è che si montano la testa poi questi uomini, eh? Loro peraltro sono emblematici, tutti gli uomini che tu hai elencato in genere. Ti ho lasciato fuori Gio Bastianich, ecco, perché Gio Bastianich ti sei inorridito, ti ho visto. Esatto, perché i canoni di cui parlavamo all'inizio, i canoni aristotelici, la bellezza e quant'altro, sì, sono proprio fuori moda, fuori tempo, è cambiata nel tempo la bellezza, ma allo stesso modo anche quella femminile, ma i canoni di ciò che piace e di ciò che si deve essere per potersi apparire belli, sono proprio cambiati nel tempo. Noi vogliamo parlare di bellezza, ma per parlare di bellezza parliamo di difetti, di complessi. Abbiamo in questa seconda parte, intanto facciamo un po' di tam tam per i nostri ascoltatori all'800 24 0024. Salute Uomo vuole essere anche un'occasione, un luogo in cui si parla e si affrontano temi di cui per una serie di ragioni non si ha il coraggio di affrontare. Allora, ad esempio, abbiamo parlato di sindrome dello spogliatoio. Ringrazio subito Alessia, ne affronteremo tra poco il tema. Ha un figlio di 12 anni che fa tantissimo sport, ma nonostante l'insistenza mia e di mio marito non vuole assolutamente fare la doccia dopo le partite e gli allenamenti, se non a casa, le abbiamo parlato più volte, ma è irremovibile. Che carta possiamo giocare? Sempre nella sindrome dello spogliatoio, che affronteremo tra poco, Antonio, ho il problema spogliatoio, nel senso che sono super dotato e ho sempre vergogna. Posso fare un'operazione di riduzione? 800 24 00 24. Adesso però stiamo, no? Noi scendiamo dai capelli, scendiamo e arriviamo alla zona mammaria, una zona in cui in alcuni casi, come abbiamo detto, può accumularsi tessuto adiposo. In questo caso si parla di ginecomastia. È un problema abbastanza diffuso, ma che non viene portato all'attenzione del medico per paura e anche per mancanza di informazione. Vogliamo salutare il dottor Alberto Marassi, responsabile dell'unità funzionale di senologia all'ospedale San Raffaele di Milano, che ci ha raggiunto. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Marassi, ci aiuti a inquadrare il problema. Quali possono essere le cause dell'accumulo di tessuto adiposo nella zona mammaria, obesità o anche sovrappeso, farmaci, disfunzioni ormonali? Sì, tutte queste cose che elencate sono vere. Noi parliamo di ginecomastia vera quando abbiamo una proliferazione della ghiandola mammaria maschile con modelli simili a quelli dello sviluppo della ghiandola mammaria femminile, cosa che non è, e quindi questo è un ambiente di tipo patologico in cui la ghiandola mammaria viene abnormemente stimolata da vari fattori. Sì. In realtà la rilevanza del fattore ginecomastia, ovvero pseudoginecomastia, vuol dire un deposito di tessuto adiposo nella regione mammaria maschile che simula e mima la presenza di un seno femminile. L'incidenza è veramente molto alta. Dobbiamo pensare che più o meno all'età di 14 anni il 60% degli adolescenti maschi presenta una ginecomastia vera, presenta una protuberanza, un aumento di volume della regione mammaria. Questa cosa è vera anche nei pazienti oltre i 50 anni, 55 anni, in cui oltre il 50% di loro presenta una situazione del genere. E questo è abbastanza comune, chiunque frequenti una spiaggia vedrà, certo, che i nonni, per così dire, o gli uomini di una certa età, lieve sovrappeso e sicuramente uno sviluppo dell'area mammaria molto diversa da quella di un uomo nella piena salute dei suoi anni giovanili di 30-40 anni. Questo è estremamente importante. Io chiederei al dottor Marassi se abbia senso pensare di fare in questo ambito prevenzione anche al maschile, esattamente come si fa nelle signore, considerando la ginecomastia, laddove appunto presente non pseudoginecomastia, come potenziale sede di un tumore al maschile. Ecco, l'incidenza di tumori al maschile è estremamente rara, presenta un'incidenza di 100 volte inferiore rispetto alla donna. Come tale viene tardivamente diagnosticato, perché ovviamente è un aumento dimensionale, la comparsa di una patologia, di un qualcosa di diverso nella mammella dell'uomo fa pensare a una ginecomastia e non alla presenza di un tumore. Un rilevamento fondamentale è che la ginecomastia è bilaterale. Tendenzialmente è bilaterale perché è legata a un accumulo di grasso, che, certo, quindi non avviene solo in un seno piuttosto che nell'altro. Certo. La comparsa invece di un addensamento duro, di un senso di fastidio, di un arrossamento del capezzolo, una sensazione di qualcosa che non va, può dar luogo alla necessità di indagini strumentali. Nel 99% dei casi la comparsa di questo addensamento, di questo fastidio, di questo dolore è legata a una ginecomastia vera, però è fondamentale distinguere la ginecomastia vera, la diagnostica di questo addensamento, differenziandolo dal tumore, che è vero che è estremamente raro, ma può anche esistere. E per fare questo le metodiche diagnostiche sono esattamente sovrapponibili a quelle che vengono messe in atto nella donna, e quindi la visita specialistica di un senologo, la esecuzione di esami strumentali che, per quanto possa sembrare paradossale, possono essere fatti anche nell'uomo, ovvero la mammografia e l'ecografia, e laddove necessario un'agobiopsia in anestesia locale, procedura ambulatoriale, che ci consente di prelevare un frustolo del nodulo e avere una diagnosi, la certezza, dire al nostro paziente: lei ha una ginecomastia vera, non ha nessun tipo di problema neoplastico, può stare tranquillo. Viceversa, il paziente in cui, seppur raramente, diagnostichiamo il tumore, possiamo avviarlo rapidamente alle terapie necessarie. Il dottor Marassi ha scritto un testo di approfondimento che potete naturalmente leggere su Salute Uomo, ma dottor Marassi, prima di salutarla, ci sono degli uomini che cercano di risolvere il problema di questo accumulo con tanti esercizi fisici, no, addominali e poi pettorali. Serve l'attività fisica per ridurre questo accumulo? Ha qualche effetto sulla ginecomastia oppure il... Ha un effetto purtroppo abbastanza modesto. Sicuramente l'accumulo di grasso nell'uomo nell'età medio avanzata è prevalentemente a livello addominale. È vero che il ripristino di un peso corporeo adeguato riduce anche il volume mammario, però se questo per esempio è cospicuo avremo una caduta della cute e una sensazione di svuotamento paragonabile a quello di una donna anziana che ha perso il volume del suo seno. Grazie. L'ipertrofia muscolare legata alla ginnastica e alla palestra serve a sviluppare il pettorale, che è il muscolo che sta sotto. Certo. Quindi l'indicazione a questi casi è chirurgica. Dottor Marassi, la ringrazio. Grazie. Torneremo davvero sicuramente ad affrontare questo tema. Molto. Grazie a voi. Grazie. E andiamo, entriamo nello spogliatoio, tema molto delicato, sì, la sindrome da spogliatoio che ha ben descritta la nostra ascoltatrice. In effetti, notato Deborah, parla proprio di un ragazzino, 12 anni, quindi in età prepuberale, iniziano i confronti e il ragazzino si rifiuta di fare la doccia insieme ai suoi compagni. Guardate che questa è una mamma molto attenta, perché ha individuato in questo rifiuto da parte del ragazzino un problema che naturalmente il ragazzino non vuole condividere con i genitori per paura, perché magari viene poi preso in giro dai ragazzini, dai suoi compagni. Se posso, Nico, il dato importante di quanto tu hai appena detto è il fatto che questa sia una mamma particolarmente attenta. Purtroppo la possibilità di fare diagnosi e prevenzione di patologie di genitali esterni nel maschio è estremamente risicata, perché non c'è l'abitudine di portare da parte dei papà questa volta il proprio figliolo da uno specialista in ambito appunto urandrologico così frequentemente come invece fatto dalle mamme per le proprie figliole. Questo è importante perché moltissime patologie, non solo che impattino sull'ambito della cosiddetta sfera del sé, quanto anche banali patologie dei genitali esterni, vengono misconosciute. Vogliamo allora ricordare, dare un messaggio, perché un tempo, voi urologi dite sempre, un tempo c'era la visita, sì, di leva, adesso non c'è più, i ragazzini non vanno dall'urologo, le ragazzine invece vanno dal ginecologo e hanno dei controlli. Allora, non vogliamo sostituirci naturalmente al medico curante, ma lo spazio Salute Uomo è uno spazio di prevenzione, quindi anche di educazione alla famiglia, alle mamme, ai papà di ragazzini in età dell'adolescenza. Sì. Quali sono il nostro viaggio di oggi, Nico, è in quanto tale già emblematico. Il capello, che può essere di fortissimo impatto in termini psicologici, ma che bene il dottor Rinaldi ci ha detto essere legato a banalmente il modo in cui si mangia, la cronologia con cui si mangia, l'aspetto della ginecomastia, della pseudoginecomastia, la palpazione, la simmetria delle mammelle. Partiamo dall'idea che il medico curante, il medico di medicina generale, sia il nostro punto forte, è il nostro punto di riferimento, ma che lui ci possa aiutare a indirizzare i ragazzi e non solo le famiglie dal medico corretto, dallo specialista corretto. Quindi è sempre importante pensare che il passaggio peripuberale o dell'adolescenza per un maschio sia parimenti importante rispetto a quello che è per la donna, e quindi l'idea di fare una valutazione di tipo preventivo sulla salute a tutto tondo a quell'età è particolarmente importante. Diamo il benvenuto al dottor Fulvio Colombo, medico chirurgo, direttore dell'unità dipartimentale di andrologia del Policlinico Universitario Sant'Orsola Malpighi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto. Grazie. Anche in questo caso parliamo di un problema che incide sull'autostima del giovane uomo, sino a pregiudicare nell'accettazione della propria identità corporea e sessuale. Il disagio, come abbiamo detto, si manifesta durante il periodo dell'adolescenza, quando il ragazzo necessariamente, magari perché pratica sport oppure banalmente perché frequenta la scuola, si confronta con i suoi coetanei, da cui talvolta viene deriso, ma nella maggior parte dei casi, non avendo il coraggio di chiedere aiuto, finisce con il vivere questa condizione in solitudine, con tutte le conseguenze che questo può portare, Andrea. Esattamente, esattamente. Abbiamo invitato il dottor Colombo perché è esperto della chirurgia dei genitali, vista sostanzialmente dalla parte di chi abbia problemi reali, e in questo caso chiederei al dottor Colombo di inquadrarci in due parole il concetto di ipoplasia peniena, cioè di quei genitali che a livello del pene sono effettivamente piccoli e potenzialmente patologici, rispetto a quella che invece è una condizione molto più comune, che in termini scientifici si chiama dismorfofobia dei genitali, cioè la percezione del fatto che i genitali un'inadeguatezza è più un problema psicologico al nostro desiderio. Allora, dottor Colombo, mi dica. Ecco, come inquadriamo? Alla fine, come si inquadra il problema? Perché poi alla fine si arriva a parlare di dimensioni. Certo, le dimensioni contano, perché le prime a creare questo possibile disagio sono anche le ragazzine o le ragazze, che non ancora esperte e non ancora con una solida identità sessuale. Però è comune, si sa, nelle scuole scherzare con i paragoni, con le prime esperienze, e quindi questo è un dato di cui non possiamo misconoscere. Un dato interessante è che in un articolo pubblicato qualche anno fa su una nostra rivista internazionale, in uno studio ampio su 250 pazienti svoltosi in Egitto, su 250 pazienti che erano afferiti a questo ambulatorio specialistico chiedendo assistenza per un aumento dimensionale del pene, quindi affetti dalla cosiddetta small penis syndrome, cioè la sindrome del pene piccolo, la sindrome dello spogliatoio, una volta condotti lungo un percorso di informazione, semplice informazione e quindi assistenza, counseling, come possiamo dire, alla fine solo 9%, cioè il 9 pazienti, il 3.6% alla fine avevano insistito nell'essere sottoposti all'intervento chirurgico, e di questi 9 pazienti solo 2 avevano un pene veramente al di sotto degli standard, e altri 2 avevano un pene sepolto dal grasso sovrapubico, e 5 avevano un pene di dimensioni normali. Quindi questo è molto importante, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che nell'immaginario qualunque uomo, l'80% dei maschi o il 90%, sto dicendo dei numeri grossolani, ma è questa la percezione, il 90% dei maschi desidererebbe avere un pene più grande di quello che lui ha. Però questo è un desiderio generico, è come probabilmente qualunque uomo desidererebbe essere un poco più alto o un poco più robusto o con meno pancia. Questo è normale, diventa patologico quando questo desiderio abbastanza diffuso, abbastanza comprensibile, diventa una patologia, quindi porta a un isolamento progressivo e addirittura difficoltà di relazioni sociali, prima di coppia ma poi sociali, con scadimento di tutta la qualità della vita. Ecco, dottor Colombo, abbiamo detto le dimensioni contano, quando si può parlare di ipoplasia peniena? Ipoplasia peniena è davvero molto rara. Allora, la prima discriminante viene fatta in epoca neonatale, quando esistono possibilità di patologie facilmente riconoscibili, come sono associate spesso multiple patologie come la mancata discesa testicolare, l'assenza di uno dei due testicoli, una incompleta crescita dell'uretra, cioè del canale dove si urina, e tutto il pene curvo congenito, e tutte queste cose sono riconoscibili in età neonatale. Altrimenti bisogna aspettare la pubertà, quando la pubertà è avvenuta, quindi diciamo dopo i 13, 14, 15 anni, a quel punto si può parlare che se la completa maturazione degli organi genitali esterni avviene verso 17-18 anni, però diciamo una lunghezza in erezione, adesso è inutile che vi annoi con tutti i dati percentili, certo, però possiamo per dare una misura grossolana, un pene in erezione è considerato patologico, cioè si può parlare di micropene quando il pene in erezione sia meno lungo, cioè più corto di 7 cm e mezzo, che sono 2 deviazioni standard dalla media. Però le posso dire che in vari studi di grandi numeri la lunghezza media in erezione nei paesi, diciamo, occidentali varia dai 13 centimetri ai 15 centimetri. Così. Poi è chiaro che ci si può andare dai 12 ai 17, ai 20, 23, ma quello ci sono persone alte 1,70 e persone alte 2,10. Certo, ci sono differenze. Allora, noi siamo in chiusura. Sì. Vogliamo raccogliere tre raccomandazioni, tre indicazioni, riflessioni, tre punti con cui... Noi ricordiamo questa puntata e ce la portiamo a casa. Che in primo luogo l'immagine corporea e la bellezza al maschile non è solo espressione di stato di benessere psicologico, ma è anche spesso stato di salute. Abbiamo imparato che il capello è espressione di salute, che ci sono dei rimedi oggi sempre più innovativi che ci aiutino a migliorare la qualità del nostro capello. Abbiamo imparato quale sia la differenza tra una pseudoginecomastia e una ginecomastia vera, con la possibilità rarissima che anche i maschietti abbiano dei tumori mammari, e quindi autopalpazione, e abbiamo dato un nome e un cognome alla sindrome dello spogliatoio, definendo quale improbabile sia la vera situazione di un pene piccolo, mentre tutte le altre situazioni che ci portano a chiedere un aumento dimensionale debbano essere ben valutate da uno specialista del settore. Ringraziamo il dottor Colombo, di cui trovate un approfondimento sulla pagina di Salute Uomo. Ottimo. Grazie. Quindi andate sul sito di Radio 24 per trovarla, ma vi daremo ogni giorno tutte le informazioni necessarie. Domani giornata delle malattie rare, Cuore Denari ha fatto un bel approfondimento con i personaggi, gli autori, gli attori di questa giornata. Trovate Ottimo. Tutte le interviste e i loro punti di vista naturalmente sulla pagina di Cuore Denari. E noi naturalmente ci prendiamo due giorni di stop, però torniamo lunedì, stiamo preparando tante cose interessanti. Complimentoni come sempre ad Andrea Salonia, eccezionale. Ci risentiamo fra un mese. Ma Leggeteci. il sito di salute, cioè la medicina narrativa, ci sono tante cose qui. Dateci anche i vostri spunti su temi che vorreste che trattassimo. Grazie a tutti e buon weekend. Buon weekend.